Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 24 settembre, Italia in controluce, Telecom Spagna, così abbiamo chiamato questa trasmissione perché Telecom è il principale gruppo italiano di telecomunicazioni e da oggi, come sapete, nelle mani spagnole. C'è accordo dunque tra Telefonica, Generali, Mediobanca e Intesa San Paolo per salire dal 46 al 66% di Telco, che controlla il 22,4% di Telecom Italia. Questa intesa è arrivata dopo le riunioni dei consigli di amministrazione di Intesa San Paolo e Assicurazioni Generali, che hanno dato il loro via libera all'operazione. Più in dettaglio, Telefonica offre 1,09 euro per azione, acquista parte delle quote Telco. In una prima fase gli spagnoli saliranno dal 46 al 66 di Telco, con un'opzione per incrementare a breve la partecipazione al 70 fino al 100% il prossimo anno. Cosa ne pensate? Siete d'accordo su questa Italia che finisce, Italia imprenditoriale che finisce all'estero? Secondo voi manca una regia politica o, come qualcuno scrive oggi, è un paese in saldo? I vostri sms 349-238-6666 subito, con la ricostruzione di questo importante accordo. Ce ne parla Valentina Furlanetto. L'accordo di Telefonica con i principali soci di Telecom Italia, Generali, Mediobanca e Intesa San Paolo, è stato formalizzato. La compagnia spagnola salirà dal 46 al 66% in Telco, la finanziaria che controlla il 22,4% di Telecom Italia. La notte è trascorsa a limare i dettagli di un'intesa che in pratica consegna in mani spagnole la maggioranza relativa del principale gruppo italiano di telecomunicazioni. In una prima fase gli spagnoli saliranno dal 46 al 66% di Telco, con un'opzione per incrementare la partecipazione al 70%. Telefonica sottoscriverà un aumento di capitale per complessivi 323 milioni di euro e un secondo aumento da 117 milioni, dopo l'ok dell'antitrust in Brasile e Argentina, per arrivare al 70% della holding. Telefonica potrà successivamente acquistare il 100% di Telco. Al momento, però, in attesa delle autorizzazioni delle autorità antitrust dei vari paesi, manterrà il diritto di voto al 46%. L'operazione non dovrebbe avere ricadute sul piano occupazionale, ha garantito l'amministratore delegato di Telecom, Marco Patuano. Ora che Telecom parla spagnolo, il timore è per gli altri gioielli di famiglia. Pare che all'Italia stia prendendo ormai da tempo lezioni di francese e Finmeccanica non disdegna il coreano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tanto stanno arrivando i vostri sms, come sempre sono molti. C'è chi, un ascoltatore, dice che la Telecom era un'azienda sana, ma D'Alema e i suoi capitani coraggiosi l'hanno annientata. Guardatevi la denuncia che fece Beppe Grillo all'assemblea degli azionisti, ci scrive praticamente un ascoltatore. Benvengano investitori esteri, la nostra politica non è certamente più in grado di gestire l'enorme risorsa che è l'Italia. Questo è un altro ascoltatore che ha fatto il 349 238 6666. Quali sono le reazioni della politica, le reazioni in Italia, con Elisabetta Fiorito? Beh, Daniele, sicuramente le reazioni non sono positive, perché proprio tutte le forze politiche si schierano contro questa vendita di Telecom alla spagnola Telefonica, e poco fa ha anche parlato Beppe Grillo, addirittura ha detto che il governo deve intervenire per bloccare la vendita telefonica con l'acquisto della sua quota, e poi Beppe Grillo addirittura suggerisce di dirottare parte dei miliardi di euro destinati alla TAV in Val di Susa, che neppure il governo francese vuole più. Questo il Movimento 5 Stelle, che è l'ultima reazione, mentre abbiamo poi il PD con Roberto Speranza, capogruppo democratico alla Camera, che dice appunto: le notizie che arrivano sul caso sono molto preoccupanti perché riguardano asset strategici del nostro paese, e addirittura Matteo Colaninno, sempre PD, responsabile economico, la garanzia dei dipendenti è a rischio. Stessa reazione nel PDL per Fabrizio Cicchitto: la vendita rappresenta un vero disastro per il sistema industriale italiano, per di più la Telefonica è oberata dai debiti. debiti. La mancanza di dettagli alimenta le preoccupazioni per Renato Brunetta, che chiede l'intervento del Premier Enrico Letta in aula a Montecitorio. Gennaro Migliore chiede che cosa ha fatto il governo per impedire il passaggio di Telecom alla spagnola. E poi per Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, è chiaro che comanda Bilderberg. Queste le reazioni politiche, Daniele. Bene, grazie. Vediamo alle tantissime reazioni dei nostri ascoltatori. C'è chi si esalta alla fine delle aziende pubbliche, luoghi di lottizzazione e di inefficienza. Un altro ascoltatore dice: fuori la politica dagli affari. Alessandro da Milano: viva gli investitori stranieri, gli italiani hanno ormai dato prova di quel che valgono. All'Italia gioiello di famiglia, si chiede Loris da Varese, un buco mostruoso anche qui, via subito. Telefonica sta comprando un enorme carrozzone reso tale dalla casta e da Carlo, scrive così: l'acquisto di Endesa da parte di Enel non ve lo ricordate già più, non facciamo i provinciali, visto che Italia e Spagna sono in Europa, dice Enrico. C'è chi addirittura rimpiange l'IRI, come Enrico Rinaldi da Fontaniva. Matteo da Pordenone scrive al 349-238-6666 che a 10 anni stiamo svendendo tutto, stiamo svendendo il nostro paese grazie ai politici. Stanno vendendo l'Italia, possibile che non ci sia nessuna protezione, scrive Angela. Ancora l'accordo Telecom Telefonica, secondo Giovanni da Bergamo, è un accordo tra moribondi. Che tristezza dover vendere gli ultimi gioielli di famiglia, scrive Luisa da Ferrara. Che tristezza dover vendere gli ultimi gioielli del nostro paese. Un altro ascoltatore, Gianni: sono contento per come abbiamo gestito le nostre aziende, abbiamo avuto manager politici incapaci. Gregorio da Catanzaro: altro che saldi. Anche perché la mia domanda era perché ho letto da alcune parti un paese in saldo a commento di quello che è accaduto. Ci teniamo le cattive aziende come abbiamo fatto con l'Italia, vendiamo quelle buone e strategiche, scrive Cristiana. Naturalmente per tutta la giornata, lo abbiamo fatto anche già questa mattina presto, anche ieri sera vi abbiamo dato conto di quello che è accaduto, di questo importante accordo di Telefonica, che sostanzialmente si acquista Telecom, il principale gruppo italiano di comunicazioni. I nostri ascoltatori sembrano soprattutto scandalizzati, e ce l'hanno soprattutto la domanda che avevo fatto: se manca una regia politica, se questo cioè è anche il frutto di una mancanza di regia politica. Mi pare di capire che gli ascoltatori siano tutti abbastanza d'accordo. Allora ci risentiamo domani come sempre alla stessa ora per Italia in controluce con il fatto del giorno.